Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Quanto tempo è passato dalla scalata del Cervino? 4 anni. La rivede? Eh sì che la rivede. La rivede tutta? Tutta. Sì. Così Walter Bonatti riviveva nel 1969 la sua grande impresa sul Monte Cervino. Tra il 18 e il 22 febbraio del 1965 il grande alpinista, esploratore, avventuriero, già protagonista della controversa conquista del K2, arrivava ai 4.478 metri della vetta, aprendo una nuova via in solitaria invernale lungo la parete nord. Un'impresa che arrivava dopo appena 3 giorni dal fallimento da un primo tentativo di attacco in cordata con Gigi Panei e Alberto Tassotti, fallito a causa di una tempesta che aveva costretto i 3 alpinisti a desistere dal tentativo dopo un bivacco in parete di 24 ore con raffiche di vento a oltre 100 km orari. A 50 anni dall'impresa di Bonatti e a un secolo e mezzo dalle prime ascensioni su questa leggendaria vetta delle Alpi occidentali tra Italia e Svizzera, gli dei dello sport ci chiedono di rivivere oggi il mito del Cervino, cima simbolo dell'alpinismo mondiale. L'inglese Edward Whymper fece del Cervino il suo mito e la sua ossessione. Erano le 13:40 del 14 luglio del 1865, quando la spedizione britannica guidata dallo stesso Whymper conquistava la vetta del Cervino, una conquista che poco dopo sarebbe stata pagata con un amaro tributo di sangue. Durante la discesa, infatti, 4 dei 7 alpinisti componenti la spedizione precipitarono per oltre 1000 metri in seguito a un incidente. Fu la prima grande tragedia dell'alpinismo moderno, che accadeva mentre, ignara del dramma, anche la spedizione italiana guidata da Jean-Antoine Carrel, battuta nella corsa verso la cima dagli inglesi, raggiungeva a sua volta la vetta il 17 luglio del 1865. Basti ripercorrere questa pagina iniziale della leggenda del Cervino per capire cosa rappresenta questa montagna nella storia dell'alpinismo. E a 100 anni da quella drammatica, coraggiosa e folle corsa verso la vetta, ecco l'esaltante impresa di Bonatti, che per 4 giorni tiene col fiato sospeso tutta l'Italia, che impugna il cannocchiale e fissa quella parete nord, alla ricerca di un puntino colorato in continua ascesa fra vento, ghiaccio e roccia. Quando quel puntino spunta in cima e abbraccia la croce metallica che si staglia verso il cielo, l'emozione è straordinaria. Lui invece sembra quasi aver fatto una passeggiata di piacere, almeno a sentire la calma e la pacatezza con cui si confessa ai microfoni dei giornalisti che lo attendono al suo ritorno. Mi scuso se tengo gli occhiali, ma ho preso troppo sole da quando arrivai in vetta e ho una forma di oftalmia. Dirò che quando ho raggiunto la vetta del Cervino, per me quella croce raffigurò un amico, un essere umano, la abbracciai come avesse un'anima. Ogni appiglio andava spolverato dalla neve o liberato dal ghiaccio. Possibilità di piantare chiodi non vennero quasi mai. Ero sempre, come si può dire, a volo d'angelo, tanto che un certo passaggio lo chiamai la traversata degli angeli. Con l'impresa in solitaria invernale sulla nord del Cervino, Bonatti di fatto chiude la sua esperienza di alpinista estremo, col sorriso sulle labbra, ovvio, come era nella sua natura. E dopo questa ascensione abbandonerà definitivamente, come ha detto, l'alpinismo? No, assolutamente, io abbandonerò l'alpinismo estremo, ma di alpinismo classico spero di farne ancora per 40-50 anni. K2, Cervino, Karakorum, Ande, Patagonia. Per Bonatti la vetta non coincideva mai con la meta ultima, definitiva dell'alpinista. Prima di tutto esploratore di se stesso. Sono state la conquista di un punto geografico. L'alpinismo è un'altra cosa. L'alpinismo non è scalare le montagne per raggiungere un punto inesplorato. Sì, l'alpinismo è incominciato così, l'alpinismo esplorativo, ma l'alpinismo classico, come lo si intende oggi, l'alpinismo è in fondo, con le sue tecniche, con le sue difficoltà, è una condizione che lo scalatore si pone per raggiungere, per conquistare se stesso attraverso la conquista materiale della montagna. e dire che Bonatti, bergamasco, classe 1930, spentosi poi a Roma nel 2011, aveva un'origine tutt'altro che affine al mondo del rischio e dell'avventura, come lui stesso spiegò ad Enzo Biagi. Che cosa la spinse a lasciare la fabbrica per tentare le vette? Il rischio, l'avventura. Ecco, si potrebbe da questa premessa pensare che io ne ho fatto un mestiere del rischio. In verità non è così. Per me il rischio è stato, e l'avventura quindi, è stato una passione, una grande passione, un bisogno di spazio intorno a me, un bisogno di libertà, un bisogno di dialogare con me stesso, oltre che con l'ambiente in cui mi muovevo. E non un bisogno di mettersi alla prova? Certo. Di vedere fino a che punto arrivo? Le componenti sono tante, indubbiamente sono tante, però credo che quelle fondamentali siano state queste che mi hanno dato la spinta di lasciare il gruppo, di lasciare la città per i grandi vuoti, i grandi spazi, pieni però di elemento vitale per me, cioè di avventura. Ma cos'era per Bonatti la paura? Glielo chiese, proprio in quella stessa intervista, anche il grande Biagi. Bonatti era solito rispondere così. Bisogna affrontarla la paura, però bisogna sapere quel che si vuole, bisogna avere coscienza della paura che si vuol vincere e bisogna soprattutto, secondo me, conoscere il prezzo della paura. Il dialogo tra il grande giornalista e il leggendario avventuriero tocca, quello sì, vette e abissi ancora inesplorati. Che cosa fa più paura? La morte in certi momenti o la solitudine? Beh, dipende. La morte e la solitudine. Beh, la morte non l'ho provata. La solitudine. Quando c'è stato vicino? Sì, ci sono stato molto vicino, sì. Ma la morte, quando la si avvicina nell'azione, non fa paura. La si prende come il toro per le corna. Ecco, questo forse è stato il mio segreto che mi ha portato a uscirne sempre da queste situazioni. La solitudine per me, ecco, io non la considero certo un fatto negativo, non è un'angoscia. La solitudine che ho cercato è un fatto estremamente positivo, è una condizione che io ho scelto per vivermi più intensamente, per vivere più intensamente, per affinare appunto la mia sensibilità e quindi vivere più intensamente l'esperienza che stavo per affrontare. Dicono che in certi momenti risolutivi, nei momenti estremi, un uomo ripercorre rapidamente tante tappe della sua esistenza. Le è mai capitato? È verissimo. Che cosa ha visto in quel momento? È verissimo. Io, ecco, un'immagine che mi salta adesso alla mente è in una certa scalata finì in un crepaccio, un volo che è durato pochi secondi, 20 metri di volo è un attimo. E io in questi 20 secondi ho rivissuto tutta la mia vita nelle sue tappe principali, le più importanti, le più significative. Ecco, in 20 secondi. Emozionante davvero rivivere attraverso le parole di Walter Bonatti il mito del Cervino, ma anche e soprattutto ritrovare il senso dell'alpinismo inteso come avventura e scoperta della natura e di se stessi. Ora qualche istante di pausa, poi continueremo a parlare del Cervino e dell'alpinismo di oggi e di ieri. Olimpia, miti e verità dello sport. Affrontate sotto o sopra, le grandi montagne aspettano l'uomo. Sempre in Val d'Aosta, Val Tournanche, hanno avuto inizio le celebrazioni per il centenario della prima scalata italiana al Cervino, la più bella e la più difficile montagna del mondo, teatro senza spettatori per le più grandi ascensioni nella storia dell'alpinismo. Le guide alpine naturalmente erano al centro dei festeggiamenti e a Cervinia presenti rappresentanze venute dal versante svizzero, presenti i nipoti dei primi vincitori del Cervino, è stata inaugurata la Casa della Guida, un edificio di stile prettamente alpino che sarà per gli uomini della montagna il centro dove giovani e anziani potranno progettare e organizzare sempre nuove imprese, a emulazione delle gesta compiute dai grandi uomini dell'alpinismo. Strano strappa un sorriso oggi sentire come i cinegiornali di 50 anni fa celebravano il centenario della conquista del Cervino, cima epica di cui oggi raccontiamo le vicende. Bene, 150 anni fa la conquista da parte dell'inglese Whymper e poi dell'italiano Carrel della Vetta, 50 anni fa la straordinaria impresa in solitaria di Walter Bonatti che vi abbiamo raccontato già. Ebbene, vogliamo invece raccontarvi anche di cos'è il Cervino oggi per chi fa alpinismo e ancora di più per chi ama la montagna. Lo facciamo incontrando forse l'emblema del Cervino di oggi, Hervé Barmas, aostano, classe 1977, originario della Van Tournanche. Hervé rappresenta di fatto la quarta generazione di guide alpine della sua famiglia, ma anche di grandi alpinisti che hanno un po' trasformato il Cervino in luogo di dialogo, di scoperta, di incontro e confronto con la montagna, oltre che luogo di grandi imprese alpinistiche, l'ultima della quale ricordiamo nel 2014 il primo concatenamento invernale in solitaria delle quattro creste del Cervino, oltre che la prima solitaria invernale della cresta di Furgen per la via degli strapiombi. Insomma, Barmas è uno che il Cervino lo conosce bene e di questa montagna leggendaria abbiamo parlato incontrandolo a casa dell'emblema dell'alpinismo mondiale Reinhold Messner, nel castello di Firmiano a margine di quel seminario che ormai annualmente proprio Messner organizza a conclusione del Trento Film Festival per riflettere su presente e futuro dell'alpinismo mondiale. E allora sentiamo il Cervino di Hervé Barmas. Con Hervé Barmas, beh, Castello di Firmiano, da qua non si vede il tuo Cervino, non è che provi già un po' di nostalgia? Ma diciamo che tanto le montagne che stanno più a cuore sono conservate lì dentro, dunque no, nostalgia no. E poi qui è un museo di montagna, insomma, si parla anche di Cervino, ci sono insomma dei riferimenti a quella che è la montagna simbolo di tutte le montagne del mondo. Anno davvero particolare per il Cervino, 150 anni dalla prima scalata, 50 anni dall'impresa leggendaria di Bonatti. È anche un modo per riscoprire una montagna simbolo, ma che spesso viene un po' oscurata dal tentativo delle grandi imprese, magari sulle grandi vette del mondo, no? Sì, diciamo che l'alpinismo segue sempre delle mode, delle tendenze. Si usava il termine spedizione in modo appropriato probabilmente proprio alla fine del 1800 e fino, diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale. Adesso parlare di spedizioni in Himalaya è un termine proprio un po' abusato. Le spedizioni non esistono più, esistono i progetti alpinisti, esistono le vacanze degli alpinisti in montagna. E dire che non esiste più l'avventura sulle Alpi è sbagliato. Non solo io, tanti di noi lo hanno dimostrato ancora. A me è capitato di farlo sul Cervino, ma perché la mia montagna di casa probabilmente fosse stata una di queste belle montagne che ci sono qua in Dolomiti e avrei guardato a quella e non al Cervino. E dunque insomma c'è tanta possibilità di fare ancora, basta la creatività, la fantasia, l'isolamento che l'alpinista si può creare nelle stagioni più fredde. L'alpinismo rimane un fatto veramente di, ripeto, di fantasia e creatività per il futuro. Direi che c'è anche una dimensione del dialogo con la montagna, no? Il saper leggere quelle pareti per trovare una sfida nuova, un percorso nuovo, una linea nuova. Si parla un po' con quella roccia. Ma io il Cervino l'ho definito da poco quasi un fratello, perché fa parte della mia famiglia da quattro generazioni, bisnonno, nonno, padre, io siamo guide alpine ormai dalla fine del 1800 ad oggi. E sì, si parla con le montagne, la natura, il mondo che ci ospita è fatto di bellezza, di panorami, di alberi, di fiori, di montagne, di mare, di deserti, di ghiacciai. Anche per quello dobbiamo cercare di rispettare l'ambiente che ci circonda. Non è una questione politica, è proprio una questione di garantire un futuro alle generazioni che verranno, e dunque va fatto da tutti noi in ogni piccolo centimetro quadrato del mondo che ci ospita. Abbiamo rivissuto l'impresa di Walter Bonatti. Ecco, per un uomo del Cervino come sei, cosa vuol dire ancora oggi, a mezzo secolo di distanza, quell'impresa? È stata un'impresa che ha segnato soprattutto la sua carriera e non solo, diciamo, la storia della Montagna del Cervino. Imprese come quella di Bonatti sul Cervino ce ne sono state altre, diciamo. Il fatto che lui abbia scelto però di concludere con quella che in quel momento lì è stata, nel 1965, è stata l'impresa più grande su quella montagna, è sicuramente un fatto secondo me che può ispirare anche le generazioni di oggi, perché in realtà lui aveva compiuto anche delle grandi imprese, tra cui il Gagebrun 4, e insomma si era già esposto anche al Karakorum e all'Himalaya. Però ecco, lui ha scelto una montagna sulle Alpi per chiudere la sua carriera e ci sono ancora possibilità per farlo. Dunque lui ha dimostrato veramente che con la fantasia, quello che si diceva prima, con la fantasia e la creatività si possono fare delle grandi cose. Ci sono stati altri uomini del Cervino, c'è stato, oltre a Carrel e Whymper, i due, diciamo, conquistatori versante svizzero italiano, mi piace ricordare anche Luigi Carrel, detto Carrellino, primo salitore della parete sud, della parete est e della parete ovest. C'è stata una bella grandissima salita di Cerruti e di Gogna assieme al Naso di Smooth, sempre sul versante nord, e ce ne sono state altre. Chiaro, non includo le mie perché mi sembrerebbe stupido, e gli alpinisti poi tendono un po' troppo a battersi la mano sulla spalla, però ecco, loro hanno segnato sicuramente delle grandi tappe. Poi vediamo, tra 50 anni ne ridiscuteremo. La grandezza di Bonatti forse è stata anche nel saperla raccontare, la montagna, no? Oltre che saperla viverla e saperla fare, forse anche questa tua generazione di alpinisti, che comprende te, Simone Moro, Daniele Nardi, altri, che ognuno col suo percorso, ma siete anche una generazione di chi la montagna prova a raccontarla da dentro e non solo a scalarla e a conquistarla. Sì, la montagna va raccontata, non però attraverso gli stereotipi e non attraverso i numeri, ma attraverso i sentimenti. E quello che cerco di fare, non è detto che ci riesca, purtroppo non è sempre facile, ed è quello che ho cercato di fare fino alla scorsa settimana, quando sono riuscito, diciamo, a chiudere il mio primo libro, che presto sarà, diciamo, nelle librerie a fine maggio, edito dalla Terza. E chissà che lì non ci sia qualche spunto. Difficilmente si troveranno i numeri delle difficoltà delle vie, più facilmente si troveranno i sentimenti, le esperienze e le emozioni vissute, che non sono solo quelle del successo. Si parlerà più di fallimento e di sentimenti contrastanti che portano a riflettere l'uomo sull'importanza della vita e di ciò che ci circonda. Ti rubo ancora un istante per un ricordo di un tuo grande compaesano che abbiamo ricordato l'altra sera, Joël Gaspar. A 100 anni di distanza, quella guerra e quegli alpinisti meritano davvero una parola non formale per ricordare quello che hanno dato a questa terra, a questa patria. Sì, Joseph Gaspar è stato un uomo del Cervino che ha partecipato alla grande guerra qua sulle Dolomiti, e quelli erano uomini d'avventura, erano grandi personaggi. E come alpinista di oggi io mi inchino quando guardo al passato e non mi stufo mai di dirlo: erano grandi avventure. La guerra ha fatto vivere delle grandi avventure, purtroppo con uno spiacevole evento, però a quegli uomini va fatto riferimento per capire che cos'era il rischio di andare in montagna e con quali mezzi si scalavano le montagne allora. Grandissime. Un'ultima cosa, quando risalirai sul Cervino, con quale obiettivo adesso? C'è ancora qualcosa da esplorare e scoprire? Per me è difficile, nel senso che ho fatto prime solitarie, prime invernali, ho aperto delle vie nuove, ho fatto il concatenamento delle quattro creste in inverno, dunque è difficile per non ripetersi. Ho ancora delle idee, ma è difficile non ripetersi. Mi piacerebbe non farlo e vediamo, è inutile parlare, prima è meglio fare. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto. Un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora, come sempre, spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia vi aspetta di nuovo domenica prossima alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.